ricordo il suono di una tromba in quel cortile senza sole, e suonava, tu piangevi. Triste di una tromba per un addio senza parole, e suonava, ti perdevo. Thank you.